Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Nei giorni scorsi, esattamente giovedì della scorsa settimana, una notizia ha animato notevolmente la giornata di borsa: l'annuncio dell'imminente superfusione fra la Borsa di Londra, il London Stock Exchange, che come è noto controlla la borsa italiana, e la Borsa di Toronto. Nella stessa giornata è stato anticipato che anche la borsa tedesca e il circuito franco-americano NYSE Euronext sono in trattative quasi conclusive per condurre in porto un'altra grande alleanza fra loro. L'operazione, peraltro, come scrivono tutti i giornali, dovrebbe essere formalizzata proprio oggi. Sono in programma i rispettivi consigli di amministrazione. Due grandi iniziative di consolidamento che avvengono a 4 anni di distanza dalla fusione fra Londra e Milano, e quella tra New York e il circuito Euronext, che comprende le piazze di Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Lisbona. Mentre appena 4 mesi fa c'era stata anche l'offerta della borsa di Singapore per l'australiana ASX. Anche se su questa operazione ci sono delle novità della mattinata, perché a quanto pare le due organizzazioni starebbero rivedendo i termini dell'accordo, ma in ogni caso appunto anche questo è un processo partito. Allora, cosa vuol dire tutto questo movimento? Per chi avesse perso queste notizie o non ne avesse compreso il senso, il significato, i numeri, la portata, i tempi e anche le ricadute per i piccoli risparmiatori, ne parleremo questa mattina. C'è un tema di fondo che ci riguarda da vicino e che si teme da parte di molti attori del mercato: un'ulteriore marginalizzazione di Piazza Affari, che è una piazza già piccola rispetto a Londra, figuratevi rispetto appunto al colosso canadese. Detto questo, appunto, stamattina ne parliamo un po' per capire intanto che tempi hanno queste aggregazioni. Si stanno ridisegnando gli equilibri mondiali delle borse, ma gli esiti sono ancora poco scontati, perché adesso anche la politica sta esprimendo il suo parere su queste operazioni, rivendicando pesi e ruoli. Comunque, con noi Moria Longo, che ne ha scritto diffusamente sul Sole 24 Ore in questi giorni. Moria, benvenuto, ciao. Grazie, ciao. Anzi, buongiorno, bentornato. A tutti. Con noi in studio anche Alessandro Capuano, responsabile di IG Market Italia. IG Markets è una società che opera nel settore dei derivati finanziari, in particolare nei CFD, contratti per differenza, su azioni, su indici, sul Forex, sul mercato delle valute e su molti altri prodotti. Capuano, bentornato anche lei. Buongiorno. In collegamento telefonico con noi Michele Calzolari, presidente di Assosim, l'associazione italiana degli intermediari immobiliari. Dottor Calzolari, buongiorno. Buongiorno a tutti. E più tardi sentiremo anche l'idea, l'impressione e la considerazione del SGR. Carlo Gentili ci sarà con noi, ci raggiungerà fra qualche minuto, perché stamattina è a Londra, è l'amministratore delegato di Nextam Partners, che è una SGR indipendente fondata e amministrata appunto da un gruppo di gestori. Quindi anche per tutti questi attori del mercato, che cosa cambia e come vedono queste grandi operazioni di consolidamento? Su qualche giornale ho trovato questa definizione: la ialta delle borse. Repubblica scriveva lunedì: comincia l'era dei giganti, si fondano le società, ma non i listini. Ecco, anche questa differenziazione forse è il caso di spiegarla agli ascoltatori. Allora, se tutto questo vi incuriosisce, chiamateci all'800 24 00 24 per chiederci appunto qualche considerazione su queste operazioni, per fare anzi le vostre considerazioni su queste operazioni, oppure scriveteci alle 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Moria, comincio con te, che hai descritto queste operazioni insieme ad altri colleghi, ricordo Antonella Olivieri, Riccardo Sabatini. Stamattina invece sulla Deutsche Börse NYSE scrive Marco Valzani. Ha detto questo: queste operazioni che hanno riempito le pagine dei giornali finanziari degli ultimi giorni erano nell'aria oppure hanno rappresentato una sorpresa? Scusate, no, non erano nell'aria così imminenti, nel senso che era dal 2007 che nessuna borsa si fondeva. L'ultima operazione era stata per esempio quella di Milano, quando si è fusa con la borsa di Londra, hanno creato un gruppo unico, e poi con la crisi, periodo appunto in cui tutti i mercati crollavano così, di questi discorsi di fusione tra grandi listini non se n'è più parlato. Quindi diciamo che è abbastanza tornato d'attualità un tema di cui ormai non si parlava da molto tempo. Diciamo che il motivo per cui è tornato a galla proprio in questo momento possono essere due doppi motivi. Il primo è che, ovviamente, essendo risalite le quotazioni di tutti i listini, comprese anche le borse che a loro volta sono quotate in borsa, quindi un po' un gioco di parole, ma ovviamente più le azioni valgono, più ognuno può vendere se stesso a un prezzo maggiore. Cioè, in passato, diciamo, nei momenti più bui della crisi, quando le azioni valevano poco, c'era la sensazione che ognuno si svendesse, sebbene tutte le azioni erano basse, però diciamo quello non facilitava le fusioni, adesso le facilita di più. Ma il vero motivo per cui le borse si fondono è che, come abbiamo detto, le borse sono delle società. Delle società che gestiscono i mercati azionari, obbligazionari dei derivati, e quindi loro hanno bisogno di fare utili come tutte le società. Il problema qual è? Che dal business delle borse si fanno pochi utili, perché i margini per ogni singola transazione, ogni singola compravendita di azioni che un risparmiatore, un fondo fa, la borsa guadagna ben poco, quindi la borsa ha bisogno di grandissimi volumi. Per di più adesso c'è anche concorrenza da parte di listini che non sono borse, listini alternativi. Per cui le borse si vedono, diciamo, ridurre i margini di guadagno, di ridurre gli utili, e quindi hanno bisogno di aumentare i volumi. Si tenga conto che il business di una borsa è un business che ha una fortissima connotazione di investimenti in tecnologia. Ovviamente bisogna essere sempre ai passi al passo coi tempi, con la tecnologia. Questo costa. Quindi le borse hanno, diciamo, da un certo versante forti costi fissi, dall'altro hanno pochi margini di guadagno, per cui l'unica soluzione per loro, intese come società, è diffondersi, creare dei listini più grandi, aumentare i volumi e quindi guadagnare di più. Questo peraltro era già il motivo che mi aveva spiegato molto bene questa mattina, prima di partire con la diretta, Michele Calzolari, presidente di Assosim. Dottor Calzolari, sembra esattamente il discorso che lei mi ha spiegato questa mattina, quindi il tema è andare a cercare naturalmente dei risparmi, sostenere i costi fissi che queste organizzazioni hanno e soprattutto combattere la concorrenza dei circuiti alternativi che sono cresciuti enormemente negli ultimi anni, ma soprattutto è anche tutto ciò che disciplina la MiFID, la direttiva che nel 2004 ha disegnato un mercato finanziario integrato. Esattamente, allora quanto è stato detto fino adesso mi sembra assolutamente ineccepibile. Dico due dati che forse spiegano bene la questione. Per quanto riguarda le azioni americane, quelle scambiate sul New York Stock Exchange rappresentano soltanto il 30% del totale, l'altro 70% va su circuiti alternativi. Per quanto riguarda Londra, soltanto la metà degli scambi va sul London Stock Exchange, l'altro 50% va su circuiti alternativi. Questa perdita di quote di mercato evidentemente ha intaccato il risultato economico delle borse, che hanno dovuto andare a cercare dimensione e quindi integrarsi per essere più grandi, per coprire meglio i costi, esattamente come succede in tutte le altre industrie del resto, quindi è un normale processo di di consolidamento, dato di sinergia per abbattere i costi. Ecco, per quanto riguarda la MiFID, che è l'altro punto che lei faceva, mi sembra molto giusto, cioè tutto questo è stato scatenato appunto dall'introduzione della MiFID, perché prima della MiFID in sostanza le borse godevano di una sorta di monopolio naturale, quindi non dovevano preoccuparsi di questi problemi. Oggi invece che appunto si possono fare questi circuiti alternativi, cioè gli intermediari fanno di fatto concorrenza alle borse, erodendo quote di mercato, hanno spinto le borse stesse appunto a cercare di diventare più grandi. E quindi si cerca appunto di creare queste grandi alleanze per fare in modo che diventino concorrenziali rispetto ai canali alternativi. Questo è l'obiettivo principale, abbattere anche i costi di transazione, oltre che i costi per le nuove quotazioni di società. Questo è un aspetto che affronteremo in un altro momento di Salvadanaio. Tu mi avevi chiesto, Moria, mi avevi detto che c'erano due motivi fondamentali per la riorganizzazione delle borse. La prima l'abbiamo detto. Ecco. Il primo era il rialzo delle quotazioni. Ah, perfetto, quindi, il secondo quindi è questo. Allora, Capuano, vengo a lei. IG Market non è un canale alternativo di intermediazione, no? Per capire appunto se siete di quelli che fanno concorrenza. No, tra l'altro coinvolgo anche lei, visto che appunto siete leader nell'ambito dei derivati finanziari, in particolar modo in questi contratti di differenza su azioni, su indici, su forex, anche su materie prime. Sì. Perché siccome stamattina c'è anche la notizia che potrebbe entrare in campo anche il mercato di Chicago, che gestisce appunto tutto il mercato mondiale delle materie prime, con un'altra offerta sul NYSE, esattamente. Quindi insomma si sta scatenando veramente una battaglia incredibile. Qual è invece il suo punto di vista rispetto a tutto questo? Ma il discorso è sì, il CME che prova a fare un bid sul NYSE ha senso, perché la tecnologia è la stessa. Se poi si scambiano commodities, si scambiano future o si scambiano azioni, tutta l'infrastruttura tecnologica è la stessa. Il vero motivo sono gli MTF e una società come la nostra, ad esempio, gli MTF sono i circuiti alternativi. Per far capire agli ascoltatori, noi in Italia abbiamo il TLX, che è gestito da Unicredit, se non mi ricordo male, così tanto almeno glielo rendiamo nella praticità agli ascoltatori. Per fare un esempio, una società come la nostra ormai scambia più del 50% degli scambi fatti su Londra avvengono su CIEX, su Bazzo, su Turquoise, che sono i principali circuiti alternativi, ed è un po' un fenomeno che continuerà ad essere presente, perché più la liquidità si trasferisce dalle borse principali ai circuiti alternativi, più i broker, gli intermediari devono garantire la best execution ai clienti, quindi devono andare a trovare la migliore esecuzione. Esatto, la cosa che purtroppo non è arrivata al cliente finale sono i vantaggi di costo, ossia la legislazione, la MiFID voleva inserire la concorrenza per far sì che i prezzi si abbassassero. I prezzi si sono abbassati, noi come intermediario paghiamo di meno le commissioni del London Stock Exchange rispetto a quelle che pagavamo 5-6 anni fa. Ancora non si è trasferito sul cliente finale. Perché? Perché tutti gli intermediari hanno dovuto investire in tecnologia proprio per creare delle piattaforme che consentissero di riaggregare la liquidità. Quindi i risparmi si sono dovuti reinvestire da parte vostra? Nel breve sicuramente c'è stato un reinvestimento. Per esempio le SIM italiane hanno dovuto cambiare in 4 anni 3 piattaforme di negoziazione e questo è stato un altro costo. Secondo me nel lungo periodo si vedranno i benefici anche sul cliente finale. Quello che però è importante fare, e gli intermediari italiani a mio avviso rispetto agli altri europei non sono tutti prontissimi, è creare quei sistemi, appunto quelle macchinette che vanno a individuare immediatamente il prezzo migliore e riaggregare la liquidità. Poi sentiamo Calzolari cosa ne pensa, visto che è stato chiamato in causa. Allora, dobbiamo già andare alla prima pausa. Io ribadisco l'800240024, numero verde per i vostri interventi. Peraltro poi magari anche questo aspetto affrontiamo. Stamattina il NYSE in Francia, proprio sulla scia che si possa scatenare la guerra con il mercato di Chicago delle materie prime, sta volando la borsa di Parigi di circa il 7%, ma in realtà il mercato all'inizio era apparso galvanizzato da questi annunci di nozze, poi un po' si è raffreddato, quindi bisogna capire quali altri, come dire, motivazioni che non convincono completamente ci sono, oltre che naturalmente anche alle, come dire, considerazioni politiche che si fanno su chi deve comandare e che ruolo devono avere appunto nell'ambito delle nuove riorganizzazioni. Tra pochissimo. Oggi ci stiamo occupando di grandi temi a Salvadanaio, di grandi operazioni di aggregazione. Una notizia che ha animato la borsa nei giorni scorsi, quella della superfusione tra la borsa di Londra, il London Stock Exchange e la borsa di Toronto, e quindi anche quella italiana, e poi un'altra grande aggregazione che potrebbe essere formalizzata oggi, a meno che non ci siano novità dell'ultima ora, quella tra l'aggregazione possibile tra la borsa tedesca e il circuito franco-americano NYSE Euronext, a meno che non intervenga un'altra offerta concorrente da parte del mercato delle materie prime di Chicago, il Chicago Mercantile Exchange, e in questo caso appunto interverrebbe con una controfferta sempre sul NYSE, e insomma c'è un grande movimento, un grande fermento, un segnale anche di fiducia per il mercato che, visto che si sta riprendendo un po', si sta risollevando dopo la crisi degli ultimi 4 anni, forse magari vediamoci anche questo buon segnale dietro a tutto questo. Detto questo, con i nostri ospiti di stamattina, Moria Long, eravamo rimasti in sospeso sulla reazione complessiva della borsa rispetto a tutto questo. Fredda, calda, com'è stata nei giorni scorsi? La reazione a una notizia di fusione ovviamente è sempre positiva, nel senso che i titoli salgono, però io distinguerei due piani del discorso. Il primo è se parliamo di borse intese come società che gestiscono mercati, per loro la fusione è, come abbiamo detto, positiva, poi magari per una è più positiva, per l'altra meno, a seconda dei concambi, di mille motivi tecnici, ma per l'industria delle borse intese come società è positiva sicuramente, per questo lo fanno. Bisogna capire però se è positiva anche per le borse intese come servizio a un paese, come servizio per imprese che si vogliono quotare, come servizio per risparmiatori che comprano, vendono azioni, i fondi e gli investitori. Dato che le borse sono sì delle società, ma sono anche delle società molto particolari, perché hanno dentro di sé un'infrastruttura fondamentale per la crescita economica di un paese, proprio perché le imprese, per esempio, si quotano, raccolgono fondi, quindi cresce proprio l'economia di un paese. Ecco, i dubbi sono più su questa seconda parte, cioè se ci sono dei benefici per i sistemi paese. Cioè il dubbio adesso, diciamo che per molti è anche una certezza, che queste fusioni sono viste nell'ottica di un interesse degli azionisti delle società mercato e meno del paese, dei paesi in cui queste società, in cui queste borse sono collocate. E se non mi ricordo male, anche su questa linea è Michele Calzolari, presidente di Assosim, no? Sì, esatto. Credo che l'implicazione più rilevante già della fusione tra Londra e Milano sia stato uno spostamento, per così dire, della testa pensante lontano da Milano e verso Londra. Questo in termini appunto di sistema paese non è una cosa positiva. Tanto più temo che succederà adesso con l'aggregazione anche di Toronto. Infatti, tra l'altro si pensava, questo me lo raccontava proprio Calzolari, lo racconto anche alle grandi opportunità che l'aggregazione con Londra avrebbe offerto alle piccole e medie imprese italiane. La City è una piazza fortemente ricca di investitori istituzionali che si pensava appunto avrebbero potuto in qualche maniera garantire sostegno finanziario alle nostre PMI. Anche questo traguardo non è stato ancora raggiunto, Calzolari. Sì, se posso... non in maniera, come dire, soddisfacente per voi. No, infatti, se posso prendere un minuto, vorrei dire una cosa. Allora, io credo che questo tipo di fusioni e aggregazioni sostanzialmente è abbastanza rilevante di per sé. Quello che conta è che il mondo del trading sta ed è cambiato. Stiamo, come diceva prima il collega, stiamo assistendo sempre di più ad un trading fatto da sistemi computerizzati, algoritmici, come si dice, che vanno a cercare le occasioni migliori nelle diverse piattaforme e sono è un tipo di trading di brevissimo periodo, stiamo parlando proprio di secondi o millesimi di secondo qualche volta. Allora questo cambia profondamente il contenuto stesso dell'operatività in borsa ed è una tendenza che è molto difficile da contrastare. Praticamente si può giudicare se è buona o non è buona perché porta liquidità, probabilmente una liquidità di minore qualità, ma in ogni caso è un trend che è quasi inarrestabile, esatto, da fermare. Allora che cosa può fare secondo me una piazza come la nostra? Può puntare sulle cose invece dove è più ricca, diciamo che quel tipo di trading tra virgolette è perso, adesso bisogna vedere ad alternative. Le due alternative più concrete sono secondo me le obbligazioni da un lato, di cui noi siamo molto ricchi, ahimè, perché abbiamo tanto debito ed è un mercato su cui siamo abituati a operare da tanti anni, e soprattutto il mercato delle piccole e medie imprese. È vero che ne stiamo parlando da 25 anni e finora non abbiamo mai ottenuto un successo, ma perché secondo me abbiamo sempre guardato troppo al lato dell'offerta, quindi il tipo di circuito, invece che al lato della domanda, cioè chi investe sulle piccole e medie imprese. Allora, in questo senso, dicevo appunto, Londra può essere un'aggregazione utile, in quanto a Londra ci sono molti fondi specializzati sulle piccole e medie imprese che potrebbero allargare la propria operatività sull'Italia. Ma questa aggregazione è già venuta da 4 anni, secondo lei come mai ancora stiamo mancando questa occasione? Perché, come dicevo, problema delle piccole e medie imprese italiane che non danno grande fiducia agli investitori londinesi? Allora, diciamo due cose, c'è stata la crisi finanziaria, questo non va da sì, certo, il timing è proprio un tema di cui dicevo prima, la testa pensante, cioè qui ci vuole qualcuno che spieghi che questo è un tema importante. Mi sembra che il nuovo presidente della Consob, da questo punto di vista, anche se non è il suo mestiere influenzare le scelte strategiche evidentemente delle società private, però ha mandato dei segnali molto chiari. Credo che ci sia un movimento, diciamo, a livello italiano importante che deve farsi sentire in questo senso, perché lì c'è uno spazio, secondo me. Benissimo. Allora, c'è uno spazio anche in Canada, Calzolari? Questo lo conosco meno, ma speriamo, immagino che anche oltreoceano ci saranno molti. Stavo pensando tra l'altro adesso anche con l'aggregazione con Toronto, la riorganizzazione anche di tutte le piattaforme, quindi parleremo di nuovo di nuovi investimenti, Alessandro Capuano, che le società dovranno rifare, quindi ancora una volta dovremo non poter vedere benefici in termini economici che si trasferiranno sui piccoli utenti del mercato. No, penso che questa volta siamo fortunati, sono i canadesi perché il London Stock Exchange ha cambiato la piattaforma settimana scorsa. Penso che ed è una nuova piattaforma di ultima tecnologia tra le più veloci che esistono al mondo. Ritengo che saranno i canadesi, gli intermediari canadesi, a doversi adeguare al London Stock Exchange. Tra l'altro, siccome anche i giornali nei giorni scorsi avevano enfatizzato, così come aveva fatto anche l'amministratore delegato della borsa italiana Raffaele Ierusalmi, il ruolo che in tutta questa grande operazione di aggregazione il mercato italiano si sarebbe ricavato nell'ambito del reddito fisso, Michele Calzolari ce ne ha spiegato appunto le motivazioni. Intanto saluto Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partners, che ci ha raggiunto telefonicamente. Gentili, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, ha sentito la discussione fino a questo momento. Queste aggregazioni devono portare ad un abbattimento di costi nell'ambito delle transazioni finanziarie, naturalmente anche delle nuove quotazioni. Credo che questo sia il punto che vi trova tutti d'accordo, Gentili, anche le SGR, le società di gestione del risparmio. Non c'è dubbio, sono assolutamente d'accordo con quanto ho sentito fino adesso. Il punto è, diciamo, come SGR noi evidentemente siamo coloro che investono, quindi noi non abbiamo accesso al mercato in senso economico, noi siamo degli utilizzatori del mercato, per cui quello che a noi sta a cuore sono almeno un paio di punti. Uno, le regole. Io credo che l'Italia, diciamo, qualche problema con le regole ce l'ha in generale, e allora Allora credo che almeno sul fronte delle borse e quindi dell'invito a investire da parte nostra agli investitori internazionali, che sono i principali investitori e che oggi sono sostanzialmente fuori dal mercato italiano, dobbiamo scegliere e dobbiamo spingere affinché la nostra borsa, che è comunque un'istituzione che controlla gli scambi, che ha un ruolo anche di controllo, debba aderire e debba stimolare al mercato con maggiori regole e debba evidentemente promuovere maggiori regole e maggiori controlli. Secondo, e lo vedo dal punto di vista delle società che dovrebbero accedere al mercato, diciamo, i costi devono scendere perché è noto che la borsa italiana ha costi abbastanza elevati e diciamo talvolta pecca anche un po' di italianità nel tipo di sforzi che vengono richiesti ad aziende familiari, perché il capitalismo italiano è un capitalismo, come sappiamo, familiare, ma quello è e con quello dobbiamo lavorare, che poi non accetta lo sforzo di quotarsi, come succede da noi da sempre. Abbiamo una borsa asfittica che ha 200 titoli e poco più. Ultima cosa che aggiungo e che forse è un po' fuori dal coro, ma la dico, tanto è la nostra caratteristica di operatori indipendenti, dire quello che veramente pensiamo, ma non sono così sicuro che abbia senso avere queste società quotate, cioè le borse quotate. Mi sembra una contraddizione in termini, così come non capisco la quotazione di certi aggregati di utilities che hanno come scopo originario quello di servire il pubblico, cioè voglio l'acqua e l'acqua deve essere buona, controllata e costare il meno possibile, e lo scopo invece di una società per azioni di massimizzare profitto. Cioè io non capisco come i comuni, per dire delle utilities, possano conciliare il ruolo di espressione dei cittadini e espressione di un azionista. Lo stesso la borsa ha il ruolo di controllare. Guardate cosa è successo anche negli ultimi tempi, i casi in cui società che si dovevano quotare e che all'ultimo secondo non si sono quotate per qualsiasi ragione, ma insomma è successo anche recentissimamente. Sì, oppure di listing improvvisi che avvengono senza, come dire, seguire le procedure regolate. Che non sono state fatte gli squeeze out, non sono state fatte opere residuali perché ci si appellava a regole eccetera eccetera, cose assolutamente sgradevoli. Terzo, tutti concordiamo nel dire che i costi devono essere i più bassi possibili, ma se io società quotata devo fare un profitto, i costi li alzo se possibile. No, tra l'altro, guardi, quindi, vi ho fatto enfatizzare. Esatto, allora le chiedo di fermarsi perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, ma ho fatto enfatizzare a tutti e quattro, perché so che era un principio condiviso, l'aspetto dell'abbattimento dei costi in prospettiva di tutte queste operazioni, che queste operazioni dovrebbero portare, perché in realtà qualche ascoltatore sta avanzando un altro sospetto, ma insomma sappiamo che le cose poi mediamente nella concretezza funzionano diversamente, come ci dice Sebastiano da Bassano, un altro ascoltatore che peraltro era in linea, è caduto, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Se pochi grandi players si aggregano in questa maniera, l'unione fa la forza, ma fa anche la forza in tanti sensi, fa anche cartello qualche volta, non è che andiamo incontro invece ad una, come dire, situazione completamente diversa rispetto all'obiettivo prefissato originariamente, cioè si aumentano i costi per gli investitori. Questo è il dubbio che c'è tra chi ci ascolta e lo commentiamo tra pochissimo. Rimettetevi le cuffie, lo dico a Moria Longa ad Alessandro Capuano. Stavamo riflettendo su quanto ci chiedeva un ascoltatore, Mario da Bergamo, che appunto diceva: ma che ne pensa Draghi, il governatore della Banca d'Italia, su tutto questo? Non credo abbia detto niente pubblicamente, ma l'impressione è che magari lui dica qualcosa ad un appuntamento istituzionale col governatore della Banca d'Italia, che è fra due settimane a Verona, il Forex, l'incontro con gli operatori finanziari, e poi con la testa, ci dicevano i miei interlocutori di questa mattina, è già a Francoforte probabilmente la guida della Banca Centrale Europea. Anche questa insomma è una questione che dovrà essere chiarita e formalizzata nel giro di poco. Insomma, c'è una grande sponsorizzazione per Draghi alla guida della Banca Centrale Europea. Detto questo, allora l'ascoltatore che ci ha scritto, un altro che ci ha chiamato, che poi ha chiuso la telefonata perché si era stancato di aspettare, Claudio, lo salutiamo, da Bergamo, sollevano qualche dubbio rispetto al fatto che insomma grandi aggregazioni di questo tipo possano effettivamente portare a risparmi di costo, a risparmi per i piccoli utenti del mercato finanziario. Alessandro Capuano, insomma, i grandi se si uniscono, in realtà qualche volta capita che facciano cartello e i costi vanno da tutt'altra direzione. Capita nell'industria petrolifera, l'accusiamo per esempio sempre di questo e in tanti altri ambiti, perché qua non dovrebbe accadere? Beh, l'obiettivo del legislatore con la MiFID e anche con la MiFID 2 che verrà introdotta tra un anno, adesso in discussione il testo al Parlamento Europeo, l'obiettivo del legislatore è creare una concorrenza sui mercati. 5 anni fa, 6 anni fa c'era solo borsa italiana, Fiat la potevi negoziare solo su borsa italiana, adesso la puoi negoziare su CAIX, la puoi negoziare su BATS, su Turquoise, e le tariffe sono diverse. Quindi il problema è che il consumatore, come dicevo prima, ancora non ha visto gli effetti, ma perché secondo me nel breve c'è stato un overload di investimenti che hanno dovuto fare gli intermediari. Che cos'è un overload? Scusatemi. Draghi sta mentendo con la testa a Francoforte e Alessandro Capuano a Londra invece. C'è stato un sovraccarico di investimenti che gli intermediari hanno dovuto fare per dare accesso a tutti questi nuovi mercati. Quando le cose si saranno stabilizzate, secondo me, allora ci sarà anche un effettivo beneficio per il consumatore finale. Allora, Carlo Gentili, ritorno da lei. Poi, tra l'altro, non abbiamo neanche dato i numeri di queste operazioni, cioè che colossi si creerebbero, con che capitalizzazione, con che numero di società quotate. Su questi punti ritorno fra un po' e quindi lo faccio preparare con Moria Longo. Carlo Gentili, un ascoltatore, ha capito benissimo prima che quando lei ha fatto l'esempio di una regolamentazione che ancora non funziona in maniera ineccepibile, perché qualche volta le società fanno un po' quello che vogliono, adesso non vorrei dirle in maniera così grossolana, se no mi chiama Gerusalmi oggi e mi sgrida anche, però insomma qualche caso di leggerezza in borsa l'abbiamo anche visto in passato, la modalità con cui si è delistata l'azienda di Mariella Burani e questo caso Philogen, sul quale proprio un ascoltatore ci chiede perché è stata ritirata l'IPO. So bene che lei prima si riferiva proprio a quello. Che cosa è successo a questa azienda? Ma ho letto i giornali, diciamo, ho visto il prospetto, ma direi che si è ritirata perché il presupposto della quotazione che avrebbe avuto grandi contratti, esatto. La quotazione avveniva sulla base di una serie di contratti, ma prevalentemente uno che contava per circa il 90% il 90% dei ricavi ipotizzati e diciamo presentati dalla società, è venuto meno credo 24 ore prima della quotazione, almeno questo è quello che la stampa ha riportato. Ecco, sono controlli, poi veramente non so, bisogna entrare dentro il meccanismo di questa cosa, però capisce che l'interesse dell'investitore, in questo caso anche di noi come SGR, che mi permette la semplificazione, ma rappresentiamo gli investitori perché gestiamo fondi comuni che sono detenuti da chi investe 1.000 euro, 100.000 euro, 1 milione di euro, 10 milioni di euro, ma rappresentiamo il pubblico, noi non è che investiamo in proprio per noi, quindi cosa che diciamo abbiamo interesse che i controlli siano massicci, come forse è stato in questo caso, non lo metto assolutamente in dubbio, ma intendo dire che è importante che i controlli avvengano, è importante che non si porti una società come dire, che basano il proprio futuro o le proprie ipotesi di crescita, di ricavi e di utili su ipotesi insostenibili o azzardate. Quindi non so se fosse il caso di Philogen, cioè infatti non ho idea. È che qualche volta però, noi addirittura sospendiamo società sempre molto tardi con un solo soggetto, diciamo, va detto e poi guarda caso il soggetto si è ritirato. Non lo so, magari ecco, però in generale è importante che la borsa svolga come diciamo che abbia gli, come sappiamo servono gli advisor per essere gli sponsor e gli advisor per essere quotati, per avere accesso alla quotazione in borsa, e quindi è importante che il ruolo dello sponsor e dell'advisor sia verificato attentamente dalla borsa, che comunque svolge attività anche di controllo, insomma, esatto. Di controllo e se tutto scambi, questo controllo quindi passasse a Toronto, magari ci sarà, però sarà poi difficile magari per una piccola e media impresa italiana che voglia quotarsi andare ad interloquire con soggetti canadesi, perché anche questo è stato ventilato, Moria, l'ho visto nel pezzo che ha scritto Riccardo Sabatini, appunto, Milano pronta a ridare alla Consob i poteri sui listing, perché c'è il rischio che Toronto li possa sottrarre, il listing e la quotazione proprio di nuove società. Sì, il listing è una delle attività che per esempio le borse fanno, le borse borse tradizionali e che le piattaforme alternative non fanno, cioè ammettere le società alla quotazione, quindi tutta la procedura burocratica, a prescindere dalla procedura che fa la Consob di diciamo vaglio dei prospetti informativi e così via, c'è tutta la procedura che fa Borsa Italiana. Allora, da tempo si parla di questa cosa, della possibilità che questa procedura sia tutta seguita per esempio dalla Consob, in modo che Borsa Italiana diventi una più simile alle borse alternative e quindi diventi solo una piattaforma di negoziazione, non faccia più questo servizio di listing. Da un po' se ne parla, da quando già Borsa Italiana si è fusa con quella di Londra, c'era già questo problema di spostamento del centro e del baricentro della... però per ora non è così attualmente, cioè lo fa Borsa Italiana e bisogna vedere se ci sarebbero dei benefici oppure no, perché ogni cosa ovviamente ha dei pro e dei contro. Comunque stiamo ancora parlando di situazioni che non si sono assolutamente concretizzate. Per concludere, visto che siamo vicini alla chiusura della nostra trasmissione, non abbiamo detto i numeri di questi mostri che nasceranno. Moria, l'operazione tra London Stock Exchange e il TMX, il listino di Toronto, dovrebbe dar vita al primo listino al mondo per il numero di società quotate, ma non per capitalizzazione, perché invece il mostro della capitalizzazione sarebbe il colosso che nascerebbe tra Deutsche Börse, NYSE e Euronext. Sì, esattamente, perché diciamo che sia la Borsa di Londra che la Borsa di Milano hanno tante imprese piccole, per cui hanno tante imprese in quanto al numero, ma meno come capitalizzazione. Per dire, la fusione tra la Borsa di Londra, Milano e la Borsa di Toronto avrebbe 6.700 società quotate, molto più delle circa 3.000 che avrebbero Deutsche Börse, cioè la borsa tedesca, insieme a Euronext, cioè quella di Parigi, Amsterdam e quella di New York. Però la borsa di Londra a Toronto avrebbe una capitalizzazione totale delle società di 5.960 miliardi contro i circa 15.000 dell'altro colosso New York, Parigi, Francoforte, ovviamente, perché a New York sono quotate le grandi imprese mondiali, le grandi multinazionali, che una di quelle fa 100 società, una bella fetta del mercato. Ovviamente. Allora, 30 secondi di tempo con Alessandro Capuano. Dalla fusione fra London Stock Exchange e Toronto nascerebbe il colosso per commodity, quindi materie prime, derivati, obbligazioni. Sarebbe il vostro primo interlocutore, credo, con IG Markets. Sì, infatti la cosa interessante è questa fusione LSI con il Canada, si crea uno specialista in tutte quelle settore come il minerario, per esempio, che è assolutamente assente sul listino italiano, però Canada e Inghilterra sono ben forniti di questo tipo di aziende ed è uno di quei settori che stanno tirando. Comunque tutti i titoli legati alle commodities e alle materie prime sono un qualcosa di interessante al momento. Insomma, vedremo che passi intraprenderanno queste grandi aggregazioni e quindi ne torneremo sicuramente a parlare ancora fra qualche settimana. E adesso dobbiamo lasciare lo spazio alla nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. INPS continua a spiegarci le parole della previdenza. Il concetto di oggi è requisiti pensionistici. La nuova disciplina delle decorrenze prevista dalla legge numero 122/2010 non si applica ai lavoratori che perfezionano i requisiti pensionistici entro il 2010. Essi potranno andare in pensione secondo le modalità previste dalla precedente normativa, in base alle quote anzianità contributiva e età anagrafica previste dalla legge 247/2007. Coloro che invece maturano i requisiti di età anagrafica e di contribuzione dal 1 gennaio 2011 potranno accedere alla pensione dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei 12 mesi se sono lavoratori dipendenti, oppure 18 mesi se sono lavoratori autonomi. Grazie a Moria Longo, Carlo Gentile, Alessandro Capuano e Michele Calzolari per essere stati con noi, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, a Filippo Oreggi per l'assistenza tecnica. Salva Danaio torna domani. Buon appetito, buona giornata a tutti.